È un sistema basato essenzialmente sull'utilizzo di telecamere, attualmente ne abbiamo posizionate 43 nei vari varchi della cosiddetta cerchia di bastioni, che identificano con un errore abbastanza piccolo dell'1-2% il numero della targa dell'autoveicolo che passa sotto appunto questi varchi. Questo numero della targa in realtà è l'inizio poi di un processo abbastanza ampio di acquisizione dei dati che ci permette di valutare se colui che passa attraverso questo varco deve pagare l'EcoPass oppure un'auto esente e se ha pagato effettivamente nell'arco delle 24 ore il ticket giornaliero che deve essere appunto acquistato oppure se è in possesso di un abbonamento annuale o a scalare. Il sistema funziona appunto partendo dai 43 varchi che appunto restituiscono al sistema informatico realizzato dal Comune di Milano in collaborazione con ATM e da lì viene fatto dapprima un accesso alle banche dati della motorizzazione e dell'Agenzia delle Entrate, dell'ACI, per poter accedere al nominativo del proprietario dell'autoveicolo. Successivamente viene fatto un accesso alle nostre banche dati anagrafiche del Comune di Milano per verificare se è residente all'interno dell'area o è residente fuori dall'area. Questo per quale motivo? Perché le modalità di pagamento sono differenti, ovvero possono usufruire di abbonamento annuale coloro che sono residenti all'interno dell'area dei bastioni, mentre invece coloro che sono residenti fuori o fuori Milano hanno diritto ad altri tipi di abbonamenti. Successivamente noi verifichiamo, sempre che la macchina non è stata già classificata come esente, quindi per capire Euro 4, verifichiamo se c'è un pagamento che è stato effettuato tramite abbonamento o tramite ticket. Esistono diverse modalità di pagamento, o quella del ticket normale acquistato presso le tabaccherie e le linee autorizzate ATM, o tramite il pagamento tramite il portale, o con il contact center, o con il bancomat, infine con il RID, che non è altro che un addebito preautorizzato tramite la banca di prova fiducia. Quindi viene effettuata una verifica che entro le 24 ore venga effettuato un pagamento, ossia presente un abbonamento a scalare o annuale, e in caso positivo viene iterato il sistema. In caso negativo si passa al sistema sanzionatorio, che è un sistema che verifica ulteriormente la proprietà dell'autoveicolo o del mezzo e successivamente emette la sanzione a carico appunto dell'auto che ha effettuato la violazione della zona EcoPass. Adesso abbiamo chiarito un po' le idee dal punto di vista procedurale, come avvengono le cose. Sì. Ecco, se volessimo capire come fa una telecamera e i software che sono collegati a questa telecamera a riconoscere la targa? Allora, funziona essenzialmente così. La telecamera inquadra un campo visivo. Il campo visivo, se è notte, viene illuminato in modo tale che sia chiaramente definibile l'immagine. Scatta l'immagine nel momento di massima definizione e successivamente un apposito software scandisce l'immagine in tempo reale. Tutto questo avviene in frazioni di secondo, quindi parliamo in centesimi di secondo, e individua il posizionamento della targa. Una volta individuato il posizionamento della targa, quindi il rettangolo dove è posizionata la targa, il software stesso si occupa di scandire i caratteri e di effettuare il riconoscimento dei 7 caratteri della targa, nel caso di targa italiana, per poter individuare i codici della targa. È chiaro che, come dicevo prima, c'è un certo tasso di errore, circa dell'1-2%, nei casi appunto in cui uno o più caratteri non vengono riconosciuti, viene restituita la fotografia e ci sono una serie di agenti della polizia locale che sono in grado di leggere le fotografie e identificare le targhe che non vengono riconosciute automaticamente dal sistema. Il sistema, fra l'altro, è già attivo anche per quanto riguarda la zona a traffico limitato interna, quella che attiva già da alcuni anni a Milano, è stato già testato con successo e dà appunto una percentuale di errore veramente bassa, ecco, per cui è un sistema dal quale non ci aspettiamo sorprese.